c'hanno il radar e quindi vedono minuto per minuto dove stanno andando. Infatti ogni tanto qualcuno che tenta di fare il furbo glielo dicono: Giovinotto, come mai ha spento la cosa? E mandano la polizia a controllare, perché non si può spegnere il coso lì, l'AIS. Pensa, nel peschereccio aveva questo radar mio fratello, da 40 miglia ti vedeva. Sì, dipende dall'altezza dell'imbarcazione e anche dal tipo di radar che c'ha. Nonostante tutto ogni tanto qualcuno si sbatteva. E poi loro avevano il pilota automatico, perché ci avevano e andavano col radar per vedere questi batti radar, si chiamano, sono dei segnali praticamente dove dovevano andare loro, gli impostavano la rotta e faceva tutto da sola la barca. Sì, funzionano tramite il GPS, è un po' quello che fa la macchina, no? Lui dice dove andare e lei ci va. Che lavoro. A dove siamo arrivati? Adesso per quanto apparecchi abbiamo, ne sfruttiamo ben poco, no? Se avessimo avuto quando c'era il boom gli apparati che ci abbiamo adesso, guai, non ce n'era per nessuno. E te credo. Sono più belli, hanno più funzioni, più cose. Quelli di prima erano sempre degli apparati un po' così. C'avevano poca tecnologia, incassavano splatter a nastro, insomma tante cose, capito? Ah, c'avevano anche il telefono nel peschereccio, quel telefono, aspetta, Motorola mi sembra che fosse. Beh, non so di che anno stai parlando, però guarda, all'epoca, prima che arrivassero i telefoni cellulari, c'era il servizio radiotelefonico, lo faceva sia Porto Torres, sia in VHF, sia in HF. Chiamavi o sul 16 o sulla 2182 e le davi il numero e ti mettevano in contatto con il numero telefonico che avevi richiesto. So che costava un pacco di soldi, quindi non lo so quanto lo usassero i pescherecci, se andavano vicino ai pescherecci usavano la 27, facevano molto prima con casa, con le comunicazioni, diciamo così, non importanti. E quindi era così. Poi quasi tutti i pescherecci, anche adesso comunque, c'erano la classica cornetta, no? Proprio tipo telefono. All'epoca si usava quella. Sì, già li ho conosciuti. E l'ascoltavo il Porto Torres Radio, la mitica Porto Torres Radio. Sì, infatti. Io per il VHF c'avevo, il patentino, quello azzurro. Per la navigazione limitata, no? Eia. Vabbè, adesso basta fare richiesta, mettere il nome della barca e te lo rilasciano, perché fa comodo anche a loro, no? Avere 100 occhi. Quindi per la sicurezza è indispensabile, è anche obbligatorio tra l'altro. Devi averlo obbligatorio in quelle barche che si allontanano un po'. Oltre le 6 miglia sicuramente, insieme anche alle dotazioni più, come dire, più corpose, ecco, perché di lì i soccorsi non è che arrivino proprio subito, ma no, non fanno parte dell'elicottero. E lo so, più ti allontani più dotazioni devi avere di sicurezza. Sì, quante volte ho ascoltato lì a tutte le ore del giorno e della notte, allora si sentiva di tutto, si sentiva tanti drammi all'epoca del mitico comandante Camedda, quante ne ha fatte, mamma mia, che vita avventurosa che ha avuto l'uomo. Niente, credo. Ma io non l'ho avuto mai qua, neanche per ascoltare, non mi piace ascoltarlo. No, a me piace moltissimo invece, è stata sempre una mia grande passione da piccolino. Io quando ero piccolo modificavo la radio, no? Con le radioline a transistor, le prime radioline a transistor, le modificavo e le aprivo, le toccavo il condensatore interno, no? Quello variabile che c'aveva dietro le rotelline di sintonia per farlo centrare in banda, lo portavo fuori banda, ascoltavo un po' di tutto. In FM anche gli aerei ci passavano, perché essendo un FM tutto particolare, quella banda larga, quella riusciva a decifrare chiaramente anche i segnali in banda aerea. Altri tempi nata lì. E questo ricevitorino che ho io va in banda aerea, la banda marina, tutto prende. Però io non li ascolto qui. Ma non li ascolti perché non li ascolti perché non ci arrivano, non li ascolti perché non ti piace a te ascoltarli? Non mi piace a me. Arriva, c'ha la banda aerea, c'ha la banda marina, tutto. Un Uniden è quello da tavolo, è mio. Ma è quello vecchio, roba vecchia. No, non è vecchio, no. Aspetta, ti dico pure il, come si chiama, il modello. Ce l'ho qua. Allora, UBC 355 CLT. Sto cercando, com'era UBC 255 U? Vabbè. Allora, UBC 355 Charlie Lima Tango. E così va bene, adesso guarda, ce l'ho anch'io quello, l'avevo preso come ausiliario, c'ha tanti nomi però, aspetta, qui come si dice, questo è l'Albrecht AE355M, lo uso, comunque per il suo costo, che costa un centinaio di euro, si trova anche per meno di 100 euro, fa il suo lavoro, dai, niente di particolare, però va. Ce n'era uno che mi piaceva ma costava troppo, anche il tetra prendeva tutto. Sì, ma non ti fa ingannare, quando ti parlano che prende il tetra, non pensare minimamente di ascoltare comunicazioni che si ascoltavano una volta, perché quelli lì si riferiscono al tetra civile praticamente, non al tetra, al cosiddetto tetra Apollo, che è quello riservato per comunicazioni sicure, quello che ha una criptatura da paura, quindi non è proprio, non si può decifrare. C'è quello civile, ma qua la gente non sa neanche cosa è il tetra, pensa che sia il tetra pack, quello per il latte. Infatti mi ho sentito più nessuno, neanche i vigili urbani, pure loro sono con quello. Greco. Dillami. Ciao Marcolino, caro caro, tu sì che mi capisci. Visto, ma stavo parlando, è sbucato fuori. Salve, scusate, ero... sto facendo delle prove, però non riesco a orientarmi. Volevo chiedere a Gianfranco se riusciva a fare da monitor a 27400, che volevo aggiustare la deviazione FM di questo affare. E quando vado nel menu di servizio se ne va 27400, tondi tondi, non posso scegliere il canale. Si tratterebbe di 5 minuti, eh? No, ma no, tutto è possibile. Chiedi e ti sarà dato. Aspetta che mi accendo l'altro. Tanto sono tutti nuovi gli apparati, quindi non è che... sono io che sono vecchio, che non ci vedo. No, mia. Quindi hai detto 27405, così, il 40. No, no, proprio 27400. Ok. Aspetta che mi devo ricordare come si usa. Okay. Oh, io Marco. Adesso ci sono uscito sulla nostra frequenza. 27400. Aspetta che segnale che c'è a 27075, sono da scala. Dovrei essere io. Io ci sono già, metto il... metto un'antenna, come vuoi, ricezione forte, debole, piccolissima. È uguale. Io spero che riceva questo apparecchio quando è modalità servizio, meno di servizio. Proviamo un po'. Adesso vado, predispongo, devi toccare un bel di tasti, il PTT e accendere. Dai, adesso sento. Io sono già lì, ma devo trasmettere o ricevere solo? Beh, anche trasmettere tu, se puoi. Trasmettere mi dice se aumenta, se incrementa la deviazione, se aumenta la modulazione in FM. Sì, c'è un casino di gente, proviamoci. Natali, dai, proviamo, provaci anche tu. Vabbè, faccio con l'altro, così so dove so. In mezzo tra il 40 e il 39. Io sono qui. Non sento nulla, Ricevo il QRM, ma se Gianfranco sta parlando là non lo sento. Boh, niente da fare, dai. Poi, quando uso questo apparecchio mi sono a chiamare. Adesso dovrebbe essere... Sì, in FM è un po' sparato. Marco, ci sei qua? Oh, Gianfra, ci sei? Sì, ci sono, Natali. Mi ricevi, sì, che sono un po' più basso qua. Prova a vedere quanto sei. 4, 5, 2, 3, 6, prova. Marco, se ci sei, siamo tornati qua. Ehi, ma mi sentivate voi? Perché io sentivo un QRM confuso come propagazione, ma voi non vi sentivo, se c'eravate. Sì, noi ti sentivamo, sei tu che non sentivi a noi. Perché sai che per quanto ti è capitato. E può darsi che il menu di servizio sia per trasmettere, ma non per ricevere. E lì non so come fare. Meno che non andiamo su quella banda speciale, famosa, col periodo di portante, almeno per avere un'idea in tempo reale, una risposta in tempo reale di come esco. Per me non c'è problema, ma... Posso preparare il tutto, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Mannaggia, oh. Ma che apparecchio è? Stai toccando il PLL, per caso? No, è un menu di servizio. Allora ti spiego, questo apparecchio all'interno non ha alcun trimmer né per la deviazione FM, né per la M, né per la potenza, niente, non ha trimmer. Si fa tutto da menu di servizio. Devi accedere al menu di servizio, che è un menu speciale, no? Tenendo premuti numerosi pulsanti più il PTT, eccetera, e accendendo. Magari di là dimmi di cosa si tratta, dai, io sto accendendo di là. Anche tu, Natalia, accendi la riserva, così almeno possiamo sentirci. Io ci sono già, Marco, quindi se vuoi parlare. Gianfranco, ci sei? Sì, Nathalie, siamo sulla frequenza del servizio. Se passi lì siamo, insomma, con la emergenza. Ma io non ti ascolto bene. Perché sono col dipolo. Ah, ok. Hai detto che siete in quella di servizio. Quella che ti riservavamo quando c'era portante. Ah, ok. Però metti l'antenna sua. Cambia antenna? Ehi, troppo basso di radio arrivi col dipolo. Troppo basso di radio? Faccio dei picchi da paura. Aspetta, come si faceva? Non mi hanno tutti. Ecco, così sei contento? Sì, che voce maschia, così sì che sei tu. Non me lo dire che mi sciolgo tutto. Allora, poco fa com'era, perché la femminuccia era solo antenna di resto. Ma arrivavi a livello QRM di radio. Basso, basso, basso. Infatti stavo andando talmente basso che non capivo più niente, perché mi stavano chiamando dappertutto. C'era quello tedesco, Italia, Italia, Italia, perché quando lavoro in polarizzazione orizzontale già lo sai cosa succede. Infatti, infatti sono passato con l'altro qua e stavo uscendo con un watt, mi sembra, in FM. No, questo quando va in FM è il doppio. Sono fatti così, sono un po' tutti particolari, capito? Poi questo c'ha il microfono da tavolo, quello uso abitualmente utilizza il microfono da palmo. E anche quello là esce forte, se lo voglio fare uscire forte, perché si può regolare, non l'ho regolato, uscire in basso. Prego. Avanti. Ok, buonasera. Uranio da questa zona, Ultimo K, mi servirebbe un controllo di Santiago e di radio. Buonasera, a te cambio. Ciao Uranio, buonasera, ben ascoltato. Per me la radio è 5, normale, senza particolari problemi. Il segnale è un 9.5. Tieni presente che è uno smitter digitale, quindi è un po'... non penso che sia esattamente proprio il massimo della precisione. Ah, ok, perfetto. Sì, va bene. Ok, tu qua stai arrivando con un segnale di 8 e una radio di 5, perfettissima. Complimenti per la tua radio, Kappa. Ok, va bene, riprendi e fa girare. E Uranio, qua stai arrivando 5 di radio e 9 di segnale qua. Non so come sto arrivando io, Natalino Alfa 1 da questa parte, dai. Ok. Natalino mi fa sentire, sì, che tu mi stai arrivando con un segnale di 7 e una radio di 4, eh. Ok. Perfetto. Cazzo, va bene. Adesso volevo fare un'altra prova, siccome sono attaccato qua, però questa parte non sa, mi va che deve dare, non lo so perché. Va bene, a te il cambio, fai girare. Sì, riprendo io allora. Guarda, io sono di fronte a Osilo, ho in vista Osilo sia le antenne, sia anche parte del paese. Tu, se non ricordo male, mi avevi detto che eri dal versante un po' verso l'Imbara, quindi dall'altra parte di Sassari. Comunque la radio va bene. Sì, ha cambiato in peggio, diciamo, 6.8, S8. se poi mi dirai, se confermi che sei proprio non in vista con Sassari, perché a quella essendo a vista, qua io penso che tu stia arrivando a 9.20, ecco, come anche con bassa potenza, con 4 watt. Ma ripeto, penso che sei coperto verso Sassari, che avrai qualche palazzina davanti, qualcosa. No, no, io ho più della palazzina davanti perché Sassari sono completamente nascosto. Infatti è controllato dall'altura lì dal castello e dentro le antenne c'è un abisso, parecchio un abisso. Io sono più contento per la gallura, bottieri, cappa e via dicendo, zona anche di Muro e Cargeges e tutto qua, capito? Per Sassari sono un po' più, perché se fosse stato a Tempoli sarei arrivato a Voglia, Fotoscala non magari, ma quasi lì realizzato, va bene, comunque l'importante è così, dai, va benissimo, a te cambio le prese. Sì, nata lì, quindi magari tu c'hai qualche puntino in più perché sei molto spostato rispetto a me verso il mare, quindi lo prendi in un fianco. E a me è arrivato sì adesso, di segnale, prima arrivava 9, dopo sì. E adesso riattaccato, però sono riattaccato, sono in quinta marcia, però questo applicatore dovrebbe dare 200 watt, invece ne tanto solo 40, già perché non lo so, è nuovo, secca, se lo apposto, però non dai watt che deve dare, bisogna che faccia. Diciamo vada a dove l'ho acquistato e ne chieda lì per vedere se è come la situazione. Va bene, ok, perfetto. Non so se arrivo aumentato Natalino, adesso come stavo dicendo prima, ho riattaccato, devo sta dicendo che sta arrivando l'onda, adesso sicuramente sarà il nome di uomo, ok, va bene, riprendi, dai capi, dai. Vai Natalino. Eia. Torna 9 è arrivato di segnale come attaccato, capito? Io non penso che stia dando solo 40 watt perché ha abbassato di molto quando ha attaccato poco fa. Ma infatti secondo me c'è qualcosa di un pochino strano, a parte il fatto che ci abbiamo la palazzina davanti nei miei confronti, a me è solo 9.10. Tu pensa ora già da Oslo normale, ecco, da un ingresso per dire di Oslo in UHF, quindi in ottica, a qua dove sono io arrivo 9.40, no, 9.50 anche a fondo scala praticamente, quindi stiamo parlando di 2-3 watt di potenza, quindi non so cosa dirti, la potenza di Oslo è enorme considerando la zona in cui sei. Probabilmente, non so, che antenna c'hai ora? L'antenna l'ho cambiata da poco, c'ho una LEM Super 16, LEM Super 16, 16 radiani, insomma, dai, della lettera l'antenna, ok? Alta quasi un po' metri, scappa con 16 radiani, a te. Break! Sì, c'è il break, Antonio, se non sbaglio. Non so cosa dirti, forse è troppo bassa, è messo troppo in basso, non rende niente. Probabilmente il problema è quello. Cioè, Antonio, se non sbaglio, avanti, buonasera. Capo, buonasera a tutti, buonasera. Questo segnale di uranio qua mi arriva, Santiago Nove mi arriva. Lo senti Urano ad Antonio? Sì, lo sento. Comunque è Uranio il mio nome, il mio nominativo, Uranio, non Urano, Uranio, ok, comunque lo fa niente, lo stesso, vai. Ok, Roger, ho sentito Antonio, buonasera e salutoni, ok, aspetta. Venga, ora, che succede? Ora, ha fatto Urano in mano. Alternata, tu. Ora. Questo cavolo di cosa, ora vedo se va bene adesso sì. Già me ne sono accorto già che era un'alternata. Ogni volta mi rubate, Break? Il break. Cantoni. Antonio, Gianfranco, Uranio e Natalino. Sono per salutarvi perché sto guardando la partita. Salutoli a tutti e riprendi pure Gianfranco. Sì, buonasera Giulio, abbiamo ascoltato, abbiamo chiamato tante volte, infatti c'è una Natalino che ha detto che c'ha la mazzetta nuova e veniva a casa a romperti tutti i televisori, così ti imparavi. Ciao, buonasera, avanti Natalino per Giulio. E allora, fate le immagini, questo qui si sente le partite invece di entrare qua. Guardati solo l'Italia come faccio io. No, adesso mi sto guardando Austria, Macedonia, 1-1 il risultato comunque, 76 minuto. Va bene, dai, ci sentiamo forse più tardi quando finisci. E domani c'è anche stanotte da guardare la partita. E vabbè, ognuno ha le sue passioni. Vai a tu, mi prendete pure, scusate l'intromissione. Prendi a tu. Capo, io me, tutto il giorno al mare ero. Hai fatto bene, continuate, dai. E gente, ce n'era tu. Ciao Giulio comunque. E a voi anche ce n'era, salutone Giulio. Cioè, per oggi abbiamo fatto tutto il giorno, abbiamo fatto. Torres con l'alternata. Sono giù, ora. Allora che c'è il microfono che mi sta rompendo le scatole. Ci deve essere mancanza di massa lì. Guarda a vedere, Natali. Ora. E che maraggio ci l'ha pigliato? Boh. E questo coso, boh. Sto pensando. Quando fa così, non capito cosa cavolo c'ha. Ah, io non sono tecnico, quindi non ne so. Capa, poi non è, ovvero io l'ho visto, quando è che non vanno i picchi? In mare va. Ma c'è qualcosa attaccato, no, Antu? Negativo. Deve essere qualche massa mezzo andata. Avanti Uranio. Ok, perfetto, sono c'è Giulio che è entrato e ci ha fatto via subito per via dalla partita, va bene. Capo, comunque ringrazio i controlli e io chiudo qua, ok, sono un procedimento di serata e ci andiamo alle prossime capa. Ok, salutoni a tutti, buon procedimento di serata e buon fine domenica. Ciao per me e buon regista. Ok, ciao, alle prossime Urania, buona serata. Riprendi Anto, vedi metterlo a posto con l'affare. No, ogni tanto lo fa. Salutoni anche da parte mia, Uranio. Sardegna, Sardegna. Capo, avanti Francesco, noi ti sentiamo, la Sardegna ti ascolta, avanti. Capo, sono Antonio Bombolo dalla città di Sassari. Capo, adesso ti passo un altro amico. Avanti, Gianfra. Sì, ciao Francesco, buona serata. Il segnale qua è 5-5, ovviamente evanescente, sale e scende. Comunque ti ascolto bene, senza problemi. Noi siamo a Sassari, nord-ovest Sardegna. Ti mando avanti un altro amico che è qua. Avanti Natalino. Bianco per me. Gianfra, devo chiudere. Al limite ci sentiamo dopo, là. Ok Natalino, anch'io fra poco devo chiudere, faccio un altro passaggio e poi vado via, non me l'accorto che erano già le 7:30. Ciao quindi Giulio, ciao Antonio e ciao Natalino, alle prossime. Rilancio un attimino per Francesco se mi sente, dalla Calabria, dalla Tropea. Avanti Francesco se ci ascolti ancora. Ciao Gianfranco, allora là, io sto continuando a guardare la partita, ciao a tutti. E ci accendo con la mazzetta qualche giorno. E ancora non è finita, poi ce n'era un'altra stanotte. Vabbè, ciao Giulio, là, io devo fare le solite cose, sto andando via per quello. Là. Ciao Gianfranco, Antonio e chi altri ci fosse in ascolto. Ok, ok, ciao Giulio ancora. Ciao Natalino. Eh sì, Giulio, adesso vado a Monteoro e faccio l'interruttore generale, così ti impari. Ma tu puoi cercare tutto quello che vuoi, intanto io la sto vedendo in una certa maniera, per cui non c'è da niente Monteoro, non c'è da niente, niente, niente. E allora una busilata su satellite. Bravo. Allora vado all'Enel e ti stacco la corrente, così ti impari. Anche il frigorifero ti blocco. No, ne ho comprato uno ieri nuovo, perché l'altro è stato riparato ma non mi convinceva troppo. E allora ho comprato anche uno ieri, piccolino, a posetto e sincero, una bomba, va benissimo. 200 euro e sì, già non se ne parla più. Hai fatto bene. Sì, perché l'altro, quella all'americana, adesso lo utilizziamo solo come frigo, perché sinceramente non mi piaceva, perché non riusciva a ghiacciare, cioè non riusciva a fare il ghiaccio il congelatore, perché con l'americana, no? Uno sportello congelatore, uno sportello frigo. Sì, magari se la metti congelata la carne o quello che sarà, già la mantiene la congelazione, però se la metti dall'inizio non ce la fa a congelare, pazienza. Allora sono andato ieri e ho comprato un nuovo frigorifero a Pozzetto, piccolino, ma sincero, veramente. Ho messo una bottiglia d'acqua per fare la prova e nemmeno di un'ora l'ha fatta ghiaccio, completamente ghiaccio. Ok, vabbè dai, continuo. Austria 1, Macedonia 1, al 76esimo. Continuate. Ok Giulio, buon divertimento. La Calabria non ci risponde, quindi anche vi saluto, dai. Buona serata a tutti, alle prossime. Ciao, ciao, ciao. Binario 10, binario 10 c'è qualcuno, capo? Ma cosa vuoi? Avrei voluto sapere io. Eccomi qua. E ben Natali. Sì, rivega là, non mi è toccato nulla, Antonio. Sanno impasciuto tutto, sanno impasciuto. Ciao Antonio. Dica, invece la conce. Lasciami a Sara. E giù Sara. Che quando la cerco io non c'è mai. Lui c'ha la stazione su. Lo so. Sto scherzando. Lo so che stai scherzando. Dammi la cucina. Ma io ho cucina. Ho detto Sara, sei andata al mare questa settimana. Questa settimana sono impegnato in visite e balle varie, Antù. Va bene, là. E allora, vediamo all'altra. Eccetera. Aspetto un'altra settimana ancora, perché siamo impegnati il 17, il 19 e basta. Non c'è problema, siamo qua. Quando è, fa di un fruscio e siamo qua. Sarà fatto. Capolava, oh yeah. Tutto bruciato, sogo Natali. Sì. A chi tu hai fatto che non manca lo zucchero, ho tutto nuda. Se c'è tutta la vita e forza di bruci. Ci sono dalle... dalle 10 stamattina ci sono. Me lo posso immaginare tutto il giorno. Poi oggi c'era caldo, oi. Cioè, via Drudra da qua, che non so, non ho ben mezzo, alle 10 sono già giù. Mandano un ghizzo. Vabbè, sono un po' caldo, caduto, però non mi ha fatto più di tanto, dai. Quando vai a farti la doccia lo sai che ore sono. Già fatto? Hai un po' fredda, te la devi fare. L'ho fatta, acqua fredda l'ho fatta. Forse è una buona idea quella. Non la devi mettere a calda, sennò ti bruci peggio che mai. Se ti sto dicendo che mi crepava quando entrava a farmi la doccia. La devi mettere, l'acqua calda non la devi utilizzare, la devi utilizzare un tiepidino proprio, Natalì, un tiepidino proprio così. Sì, ho capito. Ciao, se no ti scioglie. Sì, ti sto dicendo, mi rovinavo quando andavo. Quando tornavo a casa non c'era nulla, come entravo a farmi la doccia, il gatto mi ammazzava. Già lo so, Gugliato. Ma devi evitare di portare a calda, tutto lì è il discorso. Sì, infatti. Ma io ho l'esperienza, va di la giubbocca, come lo metto voi solito io, la morte mala. Ho dovuto subito farla tiepida, se no guai. Sì, infatti. Dimmi, conce. Quando c'è l'esaria, falla entrare, che così la sento. Capa, non so, lo dico. Questo è giù, hai visto. Ora giù comprare che ne ha tanto, il suo, che sta parecchio a fendi così, allora non la fendi più. Forse c'è qualche massa mezzo andata. Ma non vedrò tutta l'antenna, no? Ma ieri mi sentivi sul 20? Sul 20? Eia, mi ha detto Gianni, lo profeta, mi ha detto che se lo stavo crepando. Troppo vicini siete. Un po' troppo forte. Per forza. Ci siamo bucato, va. Riposati che domani ti aspetta il dovere. Guarda, sono un pochino bruciata, bruciore, però alla fine non ho problemi. Cioè, non penso che mi dia problemi domani. Speriamo. Ma ti mette la crema nibbia o quella lì, o crema nelle spalle da tua moglie? No, ci vuole l'altra, quella della protezione H, mi pare, come in settimana so che si chiama. Ma l'ho messa, ma brucia lo stesso. E oggi la potenza di illusori. Potente. Poi è una questione di abitudine, mi. Una volta che dopo ti abitui non ti fa più niente. Sì, già lo so. Ma invece... Scappa. Sono portato anche il pallone, ho giocato a pallone con mio nipotino. Ho giocato a pallone. Ci siamo divertiti, ci siamo. Sì, me lo posso immaginare. Io pure mi divertivo quando andavo a mare. Scappa. Noi siamo passati la palla, ci siamo un pochettino divertiti. Beato qui, a me piace molto, mi piace anche la piscina. Il 20 siamo liberi, di domenica. Va bene, non c'è problema. Basta fare un fischio e noi siamo qua. Sì, vabbè, già ti avvertiamo. Dopo tre. Ok. Già vi avvisiamo. Ok. Anda bene, Meda. Cazzo. Niagara ore che mi scende dalla pelle. Ma lo posso immaginare, tutta la via Cavassori. Un po' di caldo dalla pelle. Lo fa, c'è più caldo di prima, però a Pipina si è rilassato. Ha già regato gli spianati, Natalì. Ha già buttato la mozzarella in mezzo. Mortadella, ho preso quel filante dell'arborea, ce l'ha discutto in mezzo, a Monaredo. Segreto. Io porto un po' di tutto al mare. Marrego, dallo bitter, alla limonata, alla Coca-Cola, all'aranciata, un po' di tutto. Cazzo, di brigo portati, le ho tanto, un aggio, tre. Tieni, uno solo. Io ne ho due. Ne ho due. Ne ho uno grande e uno piccolo. E lui non l'ha avuto da giubbotto, oh. 6 kg di garre. Ancora ridu. Oh, già giù mangiato, gigioni. Da qui a Ribotetti. Invece i bulli di rugaggio ne ha abbastanza la cosa da giubbotto. Mi sono avuto da grattugiare, cazzo, una bomba io. E mi sa buono, eh. E te credo, con la pasta asciutta ti fai a beffa. Scappa, buona redda, eh. Eppure io ricompareggio queste cose. E ci hanno ribiazzi. Una volta che io prendo... ma io vado a forma però. Sì, tu concetta la pigliata a mezza forma, mi sembra che era, per grattugiarla sopra la pasta asciutta. 15 giorni erano una bomba oggi. Lo so già Natale. No, io vado proprio, ripiglio proprio una forma intera, capito? Quando vado a comprare il formaggio qualche volta, così, piglio una maggior parte della volta e arrivo direttamente alla forma. A tagliare ha giubiliato la ricotta, ha giubiliato una forma. Sì, buona buru che siamo qui a mangiare urbani, però chi c'era da grattugiare quella fredda, quella per mettere proprio nella pasta asciutta. Sono usciti questi gnocchi tremendi. Lo so già. Agoggio! Mi dà un cacciomono, che ci deve via Rosello. Ma sì, dai, lì l'ho comprato. Chi se di usi lo è mi? È un damasita. E chi sono gli alugri della Ruga Giovanni? Lo so, gli ho preso qualche cosa pure io. E Concetta Ballizia deve pigliare qualcosa. Li conosco una vita quella gente. Li conosce da molto. Da 39 anni. Un bel danno là nel negozio in Chivi. Tu non sei mai tendi la bassita, sei mai tendi. Ah, è pittina. Bevi il latte che ti fa bene per la gola, te. Ma Rugani mi dicendo. Allora, Rugani. E a chi era un po' garito raffreddato, curarito, e allora ha dato un latte per la ora. Mi che non le poti sciolta a me. No, non gli fa nulla a lui. Perché Rugani è un po' caretto. Oggi si vuole mangiare un pitbull, si vuole mangiare. Un pitbull bisogna sapere. Ecco, adesso non ti ha sentito perché stava parlando lui. Ti ha sovramodulato, Antu. Ma col pitbull bisogna stare attenti, eh. Ah, qui laggiù dentro, però si è fatto un bel dritto così, si vuole mangiare. E quello era un cucciolo poverino. Se l'avesse morsicato, perché a lui l'hanno morsicato, non ha ne droncato una zampa in tre lunghi, mi ha costato 1500 euro, mi è costata l'operazione. Bisogna stare attenti, bisogna stare. Allora questi cani manni così non li può vedere, subito la base. Quello poverino era piccolino e voleva andare a giocare, l'ha giocato, non voglio aggiudito, vai a te. Non va bene, sono pericolosi quei cani. Infatti, da voi cazzo di su, da cucciolo chi è, già non le rapendi niente, curarito, e che mi rapendi innanzi, ma fa giugà però, perché era un cucciolo, e lui cazzo si è stato un romero, uia. Capa, ma bisogna dare attenzione a questi cani. E sì, laggiù dentro. Sì. Antonio. Dimmi. Ascolta, ma tu è la mia amicizia, Sara la mia amicizia. Giusto? Sì, Conce. Sì, va bene. Ok. Sono entrato. Che cosa, amo? Che l'hai accettata o non sei entrata? L'ho accettata, ma non è che si sa. Oggi su Facebook poco e niente. Vabbè, Antu, dai, io me ne passo in quei resti e mi guardo quello che resta della partita. Al limite ci sentiamo domani, dai, che mi riposo un po'. Cappa, che partita c'è? L'Austria. Di grosso se metti partita. L'Austria è un altro che non mi ricordo, me l'ha detto Giulio, ma non me lo ricordo. T'ammazzo se metti partita. A te. La buca andrà meglio a curi viti, non faccio ragione. Beh, dai, ciao Antu, ci sentiamo domani al limite. Tanto vanno per entrambi un nessuno. Io chiudo lo stesso, vai. non la giocava stasera. Ciao buonanotte a tutti, ciao ciao. Ciao ciao Anto. Ciao Dormiglione, ciao. Chi è? Mamoretta. Poi ciao Lu. Ero passato a me. Ehi, tanto sta andando a casa. Ciao, parlo andato già a mare. Allora, e tu? Tutto il giorno. E anche io, su poco passo che è entrato. Capo. C'era bello oggi. Un po' di caldo c'era. Ma poi verso le 6 e qualcosa, il 20, così, è iniziato a farsi il vento. Lo so. Sto dicendo, non avevo fatto qua, secondo pettine. No. Sempre la marina. Io ero lì, ero alla rotonda. Un po' di gente c'era, no? Piena. Ma sì, da. Ma e che poi sarà quella lì che non è iniziato. Però vabbè, le temperature sono abbastanza alte. Sabato ho messo 34 gradi. Vai tu. Ma è peggio di bere, mi danno in piscina. E dove vai in piscina? Allora, ragazzo. Sta bene, è vero. Benissimo, paghi l'asdraio, non costa neanche tanto. Paghi l'asdraio e tutto, e te l'addio. No, sabato ha messo 35 gradi. Vai tu. Quanto si paga? Si paga 8-9 euro, non di più, penso. Adesso non so quest'anno, ma una cosa del genere. Tutto il giorno? Tutto il giorno. La piscina quanto è alta lì? 2 metri, mi sa, no? La piscina olimpionica è lì. Ho capito. Se tu ti butti lì? Allora no. E poi c'è quella tra i bambini. Ne ho solo due. Pure lì sono fatto benissimo. Ma è tutta una o a scala questa piscina? No, ce n'è una dei bambini e una è quella olimpionica, quella grande. Sì, ma quella olimpionica è tutta una, cioè di altezza, tutta una, oppure una parte più alta è più avanti, ma è più bassa. No, tutta una. Che la serie non si tocca, giusto? Tocchi, ma se non sai galleggiare ti va rigliosso. No, se tocchi non ti va rigliosso. C'è un gradino, c'è. Ah, il gradino volevo dire, mi veniva il nome. Sì, ho capito. Vuole essere piscina, ovviamente. Che ti dà il coso di toccare, almeno. Non so come fa uno. Lo so. Ma c'è il punto più alto, cosa adesso sulla sinistra, un esempio, la parte più bassa sulla destra. Sì, così c'è il gradino, però è tutta bara, però, capito? Non ti posso più fare? Aspetta, fai un trampolino. Ho capito, 8 euro, vabbè. Invece lì a Villa di Labio si paga 12 euro, ma quest'anno non vogliono portare roba da mangiare, roba da bere, devi consumare lì. Più conta, sono già 24 euro di entrata, più a magna si batte 50, 60, 70 euro forse, ti rimagna a pranzo e pomeriggio non ti viene fame, e devi fare merenda, cosa ti mangi, un panino in kiwi? No, io per lui. Vai a ammazzarsi. Batteria del telefono. Ciao Natalia, cosa? Cosa hai detto Natalia? Che ti faccio scoppiare la batteria del telefono. Ma con la mettella o con la miscella? La miscella. Per di bella. Io me l'ho messo. Ho fatto fare il bagno a te anche a tu. Sto divino, utente, sei stanca, stanca morta. Ma stanca morta veramente. Però nuota, proprio 11 mesi si dà da fare. È piccolina. Sì, è stanchissima, anche cenato. Io lo stesso ho mangiato giù, un panino mi è avanzato. Un panino, un super panino. Me l'ho fatto con insalata, ho messo pomodoro, maionese, insalata e cose, mozzarella. Mamma mia, era grandissimo. Tutto l'hai fatto. Come? Tutto l'hai fatto lui. Tutto l'hai fatto. È il panino. Ah sì, ebbe per forza. Cioppa. Io c'avevo le schianate. Schianate e mortadella. E filante. No. Morta in guerra, me la calì. E tu nuda hai fatto a casa? A casa ero da solo stamattina, me ne sono andato al bar con Luciano, un amico mio, quel bar che c'è vicino alle suore. E siccome ero solo non sono andato da nessuna parte. fai il caffè. E sono andato in chiri, siamo stati fin a Londra, e poi me ne sono potuto andare a casa. Vabbè, là, vi saluto che me ne passo in cui ci stavo chiudendo e ho sentito a te, sono entrato a salutare, là. Ci sentiamo alle prossime. Grazie Natali, ciao, alla prossima. Ciao, poi. Io adesso chiudo pure io. Ciao, buonanotte. C'è un po' di caldo. Io adesso mi ti gocco perché sono un bel stanco. Ciao, ciao. Sì, dillo a me. Ciao, tu. Alla prossima. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Quando non è vicino a me, un ragazzo che ci sta bene. Chi dovevo andare, chi dice che è in città. Ma tutte cavolate. Bisogna provare, nada. Capa, guarda che si sta benissimo, io sono stato benissimo, c'è una piscina che dà paura, due piscine, vabbè, una per i bambini, l'altra dà paura, proprio di tipo così da un trampolino. Anche le luci ti puoi fare lì, sì? Tutto, tutto. Ma le luci sono calde o acqua fredda? Mi pareva fredda un poco, però a più fine se fai caldo e te ne appunto. Vabbè, la posso dirti tanto, così fa caldo. Non mi ha fatto nulla a me. Vabbè, arrivi a ciacchi, non ti piaggio io. Se va così, fai male fredda, maledetta. Fa, diciamo, piacere, ma è meglio farla sempre tipida, sennò c'è il corpo caldo, poi te la fai fredda, sudi, invece la fai tiepida, sei tranquillo. Ma la volta era un po' caldina, era. Ragazzi. Ma andava, dai, ci sentiamo anche. Ciao. Saluta Sara, ciao. Ciao, ciao, ha ragione. Ciao, ciao, buonanotte. Ciao. Adesso coglione. Adesso, avete il coraggio di intendere. Ciao, buonanotte. E lui, ciao. C'è qualcuno? Non più. Ciao Roberto. Perché c'è quel secco? Hai ragione. Sto mangiando Roberto. C'era Luca prima, Bombolo, Natalino prima ancora Gianfranco e stasera era giornata di mare per molti. Io c'avevo roba da fare qua e quindi scusa la palla. Ma è cambiato il radio? Questo è un presidente, mic normale. Perché si sente questo effetto camera rimbombo? No, ha ragione Robè, sì, non credo di averlo già tolto, invece era l'altra levetta, ecco. Questa è la modulazione nuda e cruda. No, così già sei tu, dai, è bella, chiara e pulita. Sì, Robè, sono entrato per salutare, più che altro perché tutti sono andati a mangiare o insomma a fare... Che ora è? Mangiare, guardare la TV, io sto mangiando adesso, faccio un pasto unico perché prima non avevo niente fame. Più sale il caldo e peggio va per me, non lo tollero proprio. Quest'estate non credo che farò male nemmeno. Mi sposta troppo, capito? Io ci credi, io dovevo andare al mare, dovevo andare al mare e poi invece non ci sono andato. Non avevo gana, ma devo farlo per forza al magno, io cacchio, senza mare muoio. Anch'io sono così, però comincia a costarmi troppo sul fisico, comincia a pesare sul fisico, perché io se vado poi mi porto un me di roba, mi porto anche il lettino oltre che la sedietta, se io voglio stare comodo e non vado lì a svegliarmi, a mettere l'asciugamano sulle pisciate dei pescatori della notte prima, perché se annusi la sabbia certe volte l'odore è quello, mi robe. Mario, sono solo i pescatori, il pisciato giù di cani, di animali di tutti i generi. Sì, poi faccio più frequentate, una volta prima annusando la sabbia un fiaggo di quello che ti ho detto, pucci. Io ci dovrei mettere l'asciugamano, no, meglio il lettino, almeno sei sollevato da terra e poi sul lettino l'asciugamano pulito. Aspetta, c'era qualcuno avanti che vuole entrare. Quando stavi parlando tu si è sentito uno sotto forte e tu stai arrivando quasi 9.40 a me. Cos'è il fotoparato sopra? Cos'è detto Gianfranco? Scusa la macchina. Ho detto avanti che vuole entrare, avanti. Era un bel forte, era intorno a 9.30, tu sei quasi 9.40, l'ho sentito sotto. Vuol dire che non è a Puglia, se io per lui cosa vuoi dire? Lì siamo antipatici. Ah, poi se è per me io già sto chiudendomi, io adesso mi finisco la pappatoia, poi mi accendo la TV. Quindi potete entrare tranquillamente, non temete, non mangio nessuno. No, oggi ho telefonato, insomma, molte volte quando non hai gana vai a questo posto, a Trentino, a Calalupo, c'è una piscina di acqua di mare, proprio a 20 metri, diciamo, no, 50 metri dal mare la piscina, bellissima, sono due piscine belle grandi, profonde e pure. E la cosa bella è che con l'acqua del mare la cambiamo continuamente, c'è la pompa che cambia automaticamente. Quest'anno, cacchio, non hanno ancora aperto, l'anno scorso li hanno fatti chiudere in anticipo perché secondo loro stavano prendendo l'acqua senza l'autorizzazione, ossia che si la consuma nelle varie mari, ma entra ed esce, c'è la pompa, non mettono neanche né cloro né niente perché utilizzano l'acqua del mare. Una cosa di buono che c'era e li hanno bloccati, adesso l'ho chiamata al tipo, mi ha mandato un messaggio che stavano prendendo delle autorizzazioni e ancora sono da sistemare. Stavo cercando di ricordare quella località dove praticamente accedi al mare con una specie di scala ripida a zig zag. Può essere Villaggio Nulla. Ma tu stai dicendo a questo paradiso dove c'è tutta quella cosa in legno che scende, bellissimo posto, che arrivi giù proprio nella spiaggia, ti fai un chilometro a piedi, tutto con i, come si chiama, con le barriere in legno per non caderci, poi arrivi giù, c'è una spiaggia bellissima e c'è il mare che si collega al fiume, al Coghinas. Aspetta, stavo cercando disperatamente il menu, la voce menu per togliere il suo bip. Allora lì non cammini a piedi, lì praticamente c'hai una parete verticale con questa scala che scende a zig zag. Mi ricordo i turisti milanesi sono affacciati dall'alto perché praticamente è un costone a picco. Come hanno visto il mare verde, azzurro, erano a bocca aperta, erano estasiati, sai, milanesi insomma. E mi ricordo che risalendo lì col caldo terrificante che c'era e con tutta la roba che avevo appresso, anche roba da la sacca della muzza e tutto, per due volte ho rischiato l'infarto. E dov'è questa roba? Dimmi un po'. Guarda, che io ricordi almeno che mi portavano, chiamava Villaggio Nulla. Villaggio Nulla è verso Trentino, Coscia di Donna, quella zona lì. E può darsi, io mi ricordo proprio questa cosa di questa scala ripida, è un po' come fare le scale tipo le grotte di Nettuno, mi. Per carità, ascendere è un conto ma salire, col mio cuore mi. E vai a fare le grotte di Nettuno, giù mai non muoio, in vita mia mai mi sono spaventato, nel senso, affaticato. Stiamo parlando 4-5 anni fa, sono sceso il giorno, era il 14 o il 15 di Ferragosto, proprio in pieno Ferragosto, all'una del pomeriggio, senza mangiare, tieni presente, avevo fatto forse due biscotti la mattina, un caso da morire, proprio il sole a quell'ora ti prende in pieno e sono sceso alle grotte di Nettuno a piedi. Quando sono arrivato giù a Giumai non crepo, mi sentivo le gambe tremare, avevo consumato tutti i liquidi per salirne dopo, ma il sole, c'era la giornata a 40 gradi e poi il sole ci aveva in pieno per salire su, non avevo più liquidi nel corpo, alla fine cacchio, come faccio? Avrò fatto 4-5 tappe a pezzo perché non ce la facevo proprio a salire, sono andato fuori, cacchio, mi hanno fatto pagare in quel baretto che c'è sopra le grotte di Nettuno una bottiglietta piccolina da quanto era mezzo